Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Oramai non è più una ricerca. Lui mi aspetta. È lui che sa quali sono i miei tragitti e mi aspetta al varco. Perché è un uomo che, naturalmente, ha una vita avventurosa, intensa, che io mai avrò dovessi vivere per altre 100 vite. Ma del quale forse ho il merito o la colpa che mai riuscirò a espiare di averlo reso celebre. Tutta la sua vita è stata probabilmente un entrare e uscire da scatole cinesi in cui l'invisibilità era la dote più importante. Ma l'uomo che ha girato il mondo, l'uomo che ha fatto tutto, l'uomo che ha vissuto 70 vite, adesso è un personaggio. Tutti mi chiamano, tutte le donne vorrebbero conoscerlo, tutti gli uomini maliziosamente cercano dei punti deboli nel suo racconto, fanno la somma dei suoi viaggi, dei suoi periodi intensi e avventurosi, dicono: ma come? Dovrebbe aver vissuto 200 anni per aver fatto tutte queste cose. A me non interessa, è lì che mi aspetta e comincio a raccontare. Ma ci sono paesi che non descrive nessuno, nemmeno i giornali, come le ho detto, la Mauritania, il Suriname, il Belize, dove pensi che il Belize è un posto dove non esiste polizia se non privata, ci sono più banche che cittadini, c'è degli interessi mostruosi, c'è di tutto, cambia valute, turchi, greci. Quando c'è stato lei? Quanto tempo c'è stato? Sono stato a parentesi, perché lì più di tanti giorni non si può stare se non si ha una motivazione seria o uno sponsor. E quindi sono stato la settimana, i 10 giorni il massimo, però me ne sono fatto subito una logica, capito, di cosa passava in quel paese lì, in quel posto lì. Pensi che l'unico aereo che ci va è da Francoforte alla Lufthansa, perché tutti i nazisti che dicevano che erano in Argentina erano tutti lì. Ah, quindi diciamo i famosi criminali nazisti scomparsi erano tutti lì? Sì, tutti i nazisti sono lì, ce ne sarà ancora qualcuno vivo, credo, anche se avrà più di 80 anni. E cosa facevano lì? Investivano? Cosa vuole? Lì non c'è estradizione, non c'è, il governo è come quello di Tonga, c'è un dittatore che poi è un generale che ha privatizzato tutto, ha aperto le frontiere ai diamanti, lì ci sono, pensi che nel mondo non esiste più i $1,000 e i 500, lo sa perché? No. Sono stati ritirati perché i narcotrafficanti usavano solo quelle valute lì, perché? Una valigetta di $1,000 ci mettiamo poco a sistemare qualcosa, no? Ah, quindi solo le pezzature piccole? Sì, io a Los Angeles sono stato fermato perché avevo 2 o 3 tagli grossi e non le dico che guai ho passato. Me l'hanno sequestrati, me l'hanno cambiati, meno male, me l'aveva dato un cambio a valute di Napoli, pensi lei, che c'è ancora adesso vicino alla questura, si chiamava, lo dico Massimo perché è un mio amico, è uno che cambiava anche la carta straccia. Ma per strada così? Mi hanno fermato al Kind Money Changing, dove l'ho preso, avevo la pezza negativa, me l'hanno cambiati in tagli diversi. Ho chiesto il perché, ma ho spiegato la motivazione. Altri paesi del terzo mondo, tipo questo che mi ha detto? C'è un paese molto a rischio a parlare, la Mauritania, la Sierra Leone. La Mauritania è il paese delle sperimentazioni nucleari con i francesi, con tutti stanno facendo. Cioè, lì proteggono il passaggio dell'oppio, della droga. Sa che in genovese si dice te incrumiro, io credevo fosse un modo di dire, invece è una tribù sahariana che controlla tutti. Lì addestrano i somari, li riempiono di quello che devono riempirli, li mandano, questi fanno il tracciato avanti e indietro, insospettabili, altro che telecamere, radar. Ma somari a quattro zampe o esseri umani chiamati somari? No, a quattro zampe. Li riempono di droga, li fanno mangiare? Le mettono di tutto. Dentro le somme li fanno andare, questi sono abituati a fare quel percorso lì, le mettono la loro sacca d'acqua, di sale, di tutto, che possono andare tranquilli. Questi in tre giorni vanno dove devono andare e tornano indietro. Autonomi, come piccioni? Autonomi, autosufficienti, come dei cagnolini. Ah, cioè, diciamo, corrieri della droga, somari? Somari, somari. Vanno, scaricano, poi vengono ricaricati? Sì, poi hanno i loro posti e si fermano, sono stati addestrati fin dalla nascita a fare quel percorso lì. Quindi si può solo lavorare in questi campi, in quei paesi? Sì, ma trasportano tutto, armi, tutto, capisci? E anche se ammazzano un somaro, ce ne hanno decine addestrati. Ma questa è una cosa che nessuno ha mai scritto, non ho mai sentito. Non scrive nessuno, ma guardi che io sono stato amico per mio nonno di giornalisti. Io ero molto amico di Pertini quando era ancora direttore del Lavoro a Genova. Figuriamo. È diventato presidente della Repubblica, che lo sa, mi raccontava delle cose, Sandro, che perché cioè, mi ha visto crescere. E andavo delle volte lì a Fontana e Trevi, dove c'era l'appartamento sopra, c'era una trattoria sotto, ora non mi ricordo più come si chiami, e mangiavo con lui. Un giorno ha detto a uno, per non voleva offenderlo direttamente, le ha detto: lei è un affronto inutilmente spazioso. Il treno va. Bentornati a bordo. Si ricorda che per informazioni e prenotazioni è attivo l'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Aveva molti rapporti con Pertini, quindi lo conosceva da tanti anni. Veniva a casa mia quando era direttore del Lavoro, io ero ragazzo e veniva con mio nonno, che mio nonno era un vecchio socialista di quelli col sigaro in bocca incallito. È andato in lutto per un anno quando è morto Bettino. E quando era presidente continuava a vederlo? Quando era presidente della Repubblica? Sì, perché era il periodo che io facevo il militare al centro sportivo della Cecchignola a Roma, perché giocavo a pallanuoto e avevo tanto tempo libero, andavo a allenarmi alla piscina del Flaminio, e poi c'avevo tutta la giornata libera, non ero in divisa, ero in borghese. E cercavo di coltivare le mie amicizie, e lui era diventato presidente. E andava al Quirinale, a trovarlo al Quirinale? No, al Quirinale lui non c'è mai andato, ha detto che dove hanno dormito Papa e i Savoia non ci metteva piede. Lui dormiva nel suo appartamento con sua moglie al secondo piano lì dove c'è la fontana famosa. Fontana di Trevi. Fontana di Trevi, e sotto c'è una trattoria, al secondo piano c'era l'appartamento di Pertini. Ha sfiorato la storia d'Italia degli ultimi anni. Sì, ma poi ero molto amico, ad esempio, del ministro Cresci, se lo ricorda? Poco, onestamente. Eccolo che, vabbè, Andreozziano mai visto, DC, con De Vita, tutti. Lui però ha fatto la fondazione dell'Università degli Anziani, ha fatto delle cose. E anche con lui sono stato parecchio, perché andavo a trovarlo a Capalbio. Era già una località turistica ben frequentata. E poi era un personaggio spassosissimo, omosessuale dichiarato, però era uno di quegli omosessuali di cultura, di intelligenza. Ah, beh, è stato direttore del Teatro dell'Opera, ho capito. Sì, ma lui poi avveniva spesso a Genova, l'ho incontrato spesso. Quindi era amico di Cresce, beh, Cresce. Sono conoscenze. Ma c'è una persona che le andrebbe di rivedere in qualche parte lontana del mondo? Quelli sì, però non ci sono più, dottore. Tutti morti? Tutti defunti, purtroppo. Frequentava gente abbastanza anziana allora? Non ha frequentato nessuno? Ma no, giorni. Ho frequentato gente che aveva quasi 10-15 anni più di me. Io sono dal 49, questi erano dal 29-39 e non so più se ne è rimasto qualcuno in vita. Dov'è che non è andato mai? Il mondo è grosso, da avere la presunzione di dire sono stato da tutte le parti sarebbe assurdo. In Alaska non c'è andato? Mai. Dell'Africa però non parla molto volentieri lei. È perché ci ho lasciato tanti amici. Lasciati morti o lasciati nel senso? Ce l'ho lasciati con i lagunari San Marco, ce l'ho lasciati per altri motivi e ce l'ho lasciati, insomma. E poi la maggioranza sono morti di malattie. Io avevo un carissimo amico morto di tubercolosi intestinale che prende una persona su un milione. Sa cos'è la tubercolosi intestinale? Di preciso no. Pensiamo è un microbo che entra nell'intestino, subdolo, lento, fa dei piccoli buchini nell'intestino, oddio, come una capocchia ad uno spillo. Fino che tutto va bene, può mangiare, poi comincia ad avere nausea, mal di testa, dissenterie. E quando lo scoprono, che viene dalla frutta, dall'alimentazione, soprattutto perché dicono levare la banana, cosa, perché non sono solo scimmie e cose, sono anche questi insetti, e questi buchi si allargano, si figuri cosa succede. Questo mio amico è stato operato, ne ha levato 3-4 metri di intestino, ma poi è morto di infarto, setticemia, via. Ma tra l'altro ci sono 60 casi al mondo, come io ho preso la legionella. La legionella, se non trovavo il professor Tubaldi che capiva subito che era legionella, io a quest'ora sarei già defunto da 20 anni. Ogni tanto mi chiama sto professore, pensi, doveva andare in vacanza, ha rinunciato a tutto per curarmi, perché lei era già morto. Si muore, non tiene conto dell'età. E io mi sono salvato, pensi lei. Ma allora questa storia del Mal d'Africa è una cosa leggendaria, letteraria? Non lo so. Non le piace? Fino che non diventerà Stati Uniti d'Africa, non, è un continente assurdo, pieno di ricchezza, di contraddizioni, di malattie, è tribale, è inutile, comandano. Lo sa che compagnie aeree lì ci vanno malvolentieri, c'è l'UTA, Unione Trasporti Aerei e altri, perché si fregano gli aeroplani, si fregano i pezzi di manutenzione degli aerei, fanno di tutto, ci mandano le medicine, se le prendono i dittatori, la polizia. Khartoum è un posto infelice, il Sudan, vedesse cos'è il Sudan. Ma lei lì cos'era, per lavoro o per... Sì, sono stato sui confini per lavoro. Si ricorda ai signori passeggeri di non lasciare incustoditi i propri bagagli durante il viaggio. Ma è vero che nascono grandi storie d'amore tra piloti e hostess? Quando vi fermate... Dura un poco. Però ci sono, sì. Sì, c'è, come tutti gli ambienti di lavoro, però è pericoloso farsi un amante hostess. Perché è pericoloso? Perché poi lei scende in albergo, bisogna cambia rotta, qui, su, giù, nasce equivoci. Se la trova sempre addosso, quello è il problema. Se la trova, diventa la moglie dell'aria. E quindi è meglio lasciar perdere. Ci sentiamo alla prossima, va, che oggi l'ho fatta parlare troppo, non voglio farla stancare dopo. No, si figura, è un piacere. Alla prossima, buon viaggio, buon proseguimento. Anche a lei, arrivederci. Finalmente contraddico quelli che mi attribuiscono un'indole rattusa. Non so bene cosa significa, mi hanno detto tu sei rattuso quando vai nel treno. Penso che significhi in napoletano cosa tipo marpione, tipo provolone, tipo importunatore malevolo, un po' malato, un po' maniaco, quelli che cercano sempre i doppi sensi nei discorsi, proprio alieno nella mia natura, assolutamente antitetico al mio modo d'essere. Oggi ho intravisto e darò attenzione e tempo a una signora che nulla ha di istigazione alla rattusaggine o rattusità, non so esattamente come si dica, perché è una tranquilla e piacente donna che viaggia con i figli grandi, i figli probabilmente ventenni, che viaggiano con la mamma, mamma e figli che viaggiano assieme in treno. E probabilmente mi viene da pensare cosa manchi nella vita di questa donna. Non c'è un uomo accanto a lei che è il legittimo padre di quei figli? Come mai questa triangolazione singolare? E lei mi comincia a raccontare e spiegare che in realtà manca proprio quello, un uomo che la protegga. Non sente la mancanza dell'attività concreta e pratica in casa di un uomo? Ma quello che io sento è nell'essere protetta, non che poi lo debba fare, ma il senso di protezione che un uomo dovrebbe darti, quello sento di più. Poi sa, se si rompe qualche cosa, se riesco a aggiustarlo da sola, bene, se no chiamo qualcuno. Diciamo che la manodopera maschile si può anche far senza, Ma non faccia parte di questo sistema protettivo che un uomo in casa sapeva far tutto una volta? Ma più che protettivo, secondo me un po' di comodità e di risparmio, non ti devi tanto così ingegnarti a fare delle cose o a chiamare chissà chi che poi viene, non viene, arrivo alle 2, poi viene alle 4, tu devi stare in casa, te lo fa tuo marito, bene, boh, è più comodo, no? Vediamo le circostanze in cui manca questo senso di protezione, perché oggi diciamo, una donna autonoma in realtà, salvo episodi criminosi, non dovrebbe sentire questa necessità dell'uomo protettivo, sennò sembra che torniamo indietro nel tempo. Quali sono le circostanze in cui sente? Ma non è tanto una protezione dai pericoli del mondo, nel senso di protezione che dici, beh, mi caspita qualsiasi cosa, c'è comunque lui, oppure ho un peso perché mi è successo questo e quell'altro, ne parlo con lui perché è una persona fidata, una persona che ti conosce, una persona che sa quello che deve dirti in quel determinato momento. Poi se mi viene un ladro in casa non so neanche se il mio compagno, mio marito, chi per esso prende in mano un bastone e mi possa difendere, magari sì, magari no, non però lo so. l'idea le piacerebbe un uomo che la difende con il bastone in mano dai pericoli. Vabbè, a chi non piace, dai, comunque anche se ci siamo evolute, diciamo che una parte di noi stesse rimane un po' all'età della pietra, quando l'uomo aveva in mano la clava e cacciava via gli animali cattivi dalla caverna, dai, insomma. Non basta il giro degli amici, conoscenti, gli amici del cuore, i colleghi, per avere questo senso di catena di protezione maschile attorno a sé, o ci vuole proprio un uomo che viva con noi? Allora, la vicinanza di un uomo che vive con noi la senti più presente, più quotidiana. Tante volte a me capita, magari mi vergogno di chiamare un collega, un amico, perché magari lo disturbo, gli do fastidio, magari ha dell'altro da fare, quindi ti tieni il tuo problema per non disturbare l'altro, tutto qui, mentre se la persona che vive con te ti guarda in faccia, capisce, ti dice che cosa c'è? Il treno va. Bentornati a bordo. Si ricorda che per informazioni e prenotazioni è attivo l'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Io non credo di risposarmi mai più nella mia vita. Adesso che ho superato il trauma della separazione, del tradimento, sono rimasta da sola con i miei figli, quindi li ho cresciuti, li ho accuditi anche da sola, ma non tornerei mai più indietro adesso a vivere con un altro uomo, no. Ma quindi una separazione vecchio stile, perché c'era un'altra storia in mezzo, così come... Purtroppo sì. E non poteva aspettare che finisse l'altra storia, no? Tante volte, non lo so, a volte non pensa, finirà. Allora, uno gli dà comunque una possibilità, gli dice, ascolta, è successo questo, però chiudiamo un occhio, ci sono di mezzo due figli, pensa bene a quello che fai, magari è un abbaglio, per un anno comunque gli lasci la porta aperta. Ma in quell'anno, in quel lasso di tempo, lui ha una vita frizzante, finalmente gli aperitivi, le vacanze, i weekend, non con questi bambini in mezzo alle palle, la moglie che lo sgrida perché non ha abbassato la tavoletta del water, eccetera, eccetera, eccetera, e così si torna indietro, fa per conto suo. Vabbè, però è come tornare indietro di 20 anni, uno se fa una scelta di fare i figli sa che non tutto è compatibile, Però a un certo punto cosa fai? Lo obblighi a stare lì? Col muso? Che non è contento di stare lì con te? No, che vada per la sua strada. Assolutamente, io parlo per me, preferisco far fatica da sola che avere un peso tutti i giorni a casa che non è contento, te lo fa anche capire. Il problema non è il marito o la moglie, il problema sono i figli, che i figli si devono adeguare a questo nuovo stile di vita. Papà di qua, la mamma di là, e ci vuole molto buon senso per non ledere la loro serenità. Ma non può essere una grande occasione in questo caso anche per la donna, perché gli aperitivi, la vita frizzante la può fare anche lei adesso, chi glielo nega? Prima di tutto vengono i miei figli, quindi io non lascio a casa i miei figli per andare a prendere un aperitivo, assolutamente. Prima vengono loro. Quanti anni hanno i figli? Beh, adesso sono grande, adesso posso prendere tutti gli aperitivi che voglio. Ormai hanno 20 anni, quindi anche 20 anni loro. Avranno la loro vita, non credo che deve stare a casa per loro, no? No, questo sì, però quando i bambini avevano 4, 5, 6 anni, io non li ho mai lasciati a casa da sola per andare a prendere un aperitivo, stiamo scherzando. Vabbè, ha rinunciato a una bella fetta di vita comunque, no? Vabbè, ma la rinunci comunque a priori, quando metti in mondo un figlio, volente o dolente, sai che la tua vita viene dopo quella dei tuoi figli. Boh, io penso ci sia una via di mezzo, ci potrà essere, perché quando i figli si trovano un genitore ormai spento che ha dato tutto per loro, io tutta la vita mi sono sentito rinfacciare, ho dedicato a te la mia vita, ho sofferto per te, ho fatto i sacrifici. Ma non si può avere figli senza sacrifici, no? Ma la via di mezzo c'è se hai la fortuna di avere dei genitori giovani o comunque qualcuno che ti possa aiutare nella gestione dei figli. Allora sì, allora guarda, ti porto dei nonni che sono giovani, sono in gamba, ti portano al cinema, allo zoo, eccetera, eccetera. Nel frattempo io e papà andiamo al cinema anche noi a mangiarci una pizza in tranquillità. Ma se questo supporto ti viene a mancare, devi fare delle rinunce, per forza. Ma certo, se è un caso di un uomo che scappa e lascia il fardello all'altra persona, non se ne occupa più, è abbastanza frequente. È pesantino. È la cosa pesantino. Più pesante. È pesantino, sì. Ma infatti la mia pena per tanti anni è stata: ma io sarò in grado da sola di crescere due ragazzi a modo di trasmettergli tutto quello che io vorrei che loro sapessero? Oppure sto sbagliando e non ho nessun punto di vista vicino che mi possa consigliare? Il dubbio ti viene. Si ricorda ai signori passeggeri che nella carrozza 8 è attivo il servizio di ristorazione. Quindi lei si è negata ogni altra possibilità anche di avere una persona vicino in tutti questi anni? Allora, ci ho pensato, io ho un compagno, ma io non me la sono mai sentita di far vivere i miei figli un uomo in casa. Vabbè, questo è trascurabile, anzi meglio. Dopo l'esperienza del marito, sfido chiunque a riprendersene un altro dentro casa. Però almeno ha avuto... Vabbè, ma la maggior parte delle donne fa così, perché il peso è troppo pesante, non ce la fanno, o anche economicamente, non ce la si fa, quindi qualsiasi problema diventa ancora più pesante. Allora magari trovi una persona a modo che ti vuole bene e ti accasi, perché è difficile stare da sole, è difficile. Però vedi, torniamo al problema di partenza. Alla fine quello che parte come un rapporto d'amore, di progetto di vita, è la ricerca di un falegname, un idraulico, un damo di compagnia, qualcuno che riempa il vuoto dentro casa. È un po' difficile pensare. Ma io il vuoto lo riempio con me, grazie a Dio. Ho dei ragazzi fantastici che mi vengono dietro nei miei hobby, nelle mie passioni, li condividiamo. Beh, ma figli di 20 anni è proprio convinta che ha tutta sta voglia di ancora di uscire con la madre? Non lo so, è Beh, sano? Hanno più voglia di uscire con gli amici, questo senz'altro. Però vedo che quando dico ragazzi andiamo a fare un weekend, ovviamente un weekend che interessi anche a loro, che ci siano delle motivazioni valide anche per loro. Ho la fortuna che mia figlia viene ancora con me in vacanza una settimana, poi lei va in vacanza con gli amici. Basta avere gli stessi hobby, gli stessi interessi e non fare troppo la madre, ogni tanto bacchettare anche di meno. Beh, nel suo progetto fra un po' verrà la domanda fatidica: ma non mi date dei nipotini o sbaglio? Un attimo dai, un attimo, sono ancora giovani per i bambini, prima o poi arriveranno e mi piacerebbe poterli seguire come ho seguito i miei figli. Vediamo, se dovessero arrivare. Beh, io posso solo augurarle che dal momento della liberazione dai figli al momento della presa in carico dei nipotini passi qualche anno da dedicare solamente a lei, forse la cosa migliore. Ma questo senz'altro, ma c'è un problema grosso in Italia, che se non ci fossero i nonni la vedo dura per questi ragazzi. Però vede, già è pronta la missione futura di fare la nonna, ahimè. Grazie, ma... buona giornata, buon viaggio, a presto. Altrettanto, arrivederci, grazie. È facile classificare i passeggeri di un treno in base all'attrezzatura elettronica che hanno. Normalmente ci sono le signore indaffaratissime, con la valigia da donne manager, che appena si siedono tirano fuori subito il loro apparato, hanno dei perfetti telaietti per appoggiare il loro Mac di ultimissima generazione. Lo appoggiano lì, attaccano la corrente e cominciano a smanettare. Ci sono quelli che hanno computer ancora più antiquati, sono quelli che viaggiano per le aziende, hanno dei laptop antichissimi, con delle borse nere, grosse, che pesano chili. Li aprono e cosa fanno? Giocano con il solitario di Windows, che avrà almeno 20 anni, e stanno lì, si fanno il solitario. Poi ci sono quelli che si guardano i film, poi ci sono quelli con lo smartphone in mano, e poi ci sono quelli che guardano indecenze in rete senza immaginare che chiunque passa butta gli occhi nel loro monitor e si rende conto che stanno guardando cose che normalmente si guardano da soli. Beh, per questi ultimi ho pensato di sottolineare un paradosso, di cui mi sono accorto. In molti social network si può postare qualsiasi cosa, ma ci sono alcune aree tabù. Una di queste è proprio quella dei capezzoli femminili. Si possono far vedere donne in pose discinte, si possono far vedere immagini anche molto hard, ma non si possono vedere capezzoli femminili. Molte volte anche soltanto una donna che allatta viene bannata dall'algoritmo che banna il capezzolo. E per paradosso molti hanno pensato di prendersi gioco di questa sorta di idiozia censoria degli algoritmi che danno il senso del pudore nei social network. La guerra delle donne contro il capezzolo bandito dai social network si gioca ancora sul filo dell'ironia. Sono in molte a intravedere un retro pensiero sessista nel divieto di Instagram di pubblicare foto di donne a seno nudo. Nasce così il movimento Free the Nipple, per il libero scapezzolamento social condiviso. Al divieto di farsi un selfie a seno nudo si risponde coprendo le estremità proibite con un'immagine di capezzolo maschile, che al contrario è ammesso, perché ipocritamente non considerato oggetto di turbamento. Un gesto politico, insomma. Una chiara volontà di ristabilire il principio che il tabù cybercapezzolare sia un retaggio oscurantista e bigotto. Non è ammissibile che la civilizzazione digitale conservi un retaggio così arcaico come il terrore di ufficializzare la funzione di zona erogena e quindi il ricettore di piacere sessuale a una papilla cutanea che deve restare indicibile e invisibile, oltre la sua definizione anatomica di apparato mammario. Non a caso, nelle tavole della legge dei social network, il seno nudo è tollerato unicamente se appartenente a una donna che allatta o una mastectomizzata, imposto quindi nella sua rassicurante funzione naturale o nella sua versione mutilata, in cui il tumore ha avuto il ruolo di censore. Un significato molto più profondo, quindi, che una semplice moda virale. Le nuove suffragette di Free the Nipple ostentano spudoratamente il proprio topless con il grottesco collage di due capezzoli di uomo applicati con Photoshop come sfida ai talebani dell'iconoclastia social capezzolare. Il risultato è naturalmente comico e tutt'altro che lubrico, ma è l'occasione perfetta per sottolineare ancora una volta quanto sia ridicola la soglia del pudore affidata all'algoritmo braghettone. Il treno va. Finalmente mi rifaccio da questo edificante quadrettino di donna virtuosa, che tutta la vita, pur essendo tradita e abbandonata, vive nel sacrificio e l'allevamento di figli. E quando i figli sono autonomi, oltre ad andare con loro in treno, passare dei fantastici fine settimana, pensa, immagina, già quando sarà il momento, lei diventerà nonna. Una donna votata comunque all'altruismo nei confronti della sua missione materna. Di tutt'altra opinione e tutt'altra vocazione, invece, ecco lei che mi scrive la audiolettera dedicata ai problemi di cuore. Ciao Gianluca, ho 42 anni, sono sposata da 7 e ho due bambini. Mio marito ha un'attività legata al turismo in Sardegna, motivo per cui diversi giorni al mese ci troviamo in città diverse. Ma facciamo in modo che non passi mai più di una settimana senza ritrovarci tutti e quattro qui a Milano. Veniamo ora alla vicenda per la quale ti scrivo, una vicenda chiusa, ma che mi lascia a tutt'oggi delle domande aperte, che voglio rivolgere a te. L'estate scorsa abbiamo deciso che sarei stata qualche volta io a muovermi e ad andare da lui. Salgo sull'aereo per la Sardegna e tra hostess e assistenti di volo dediti all'accoglienza dei passeggeri sbuca il pilota, un bell'uomo che mi dà un benvenuto con un gran sorriso e uno sguardo pieno di attenzione. Ho avuto quasi la sensazione che mi stesse aspettando. Ricambio con gentilezza, ci scambiamo due battute, poi io mi vado a sedere al mio posto, pensando francamente che la cosa sarebbe finita lì. Invece, dopo il decollo, vedo una hostess che mi si avvicina e mi porge un bigliettino da visita del comandante con un invito a chiamarlo, scritto sul retro. Sorrido imbarazzata alla hostess, pensando tra me e me, chissà quante volte le è toccato fare da messaggera. Ma... dopo l'atterraggio, esco dalla porta posteriore e mi dileguo evitando il pilota. Ma una volta tornata a Milano, mi ritrovo in tasca il biglietto da visita e un po' per curiosità, un po' per civetteria, decido di chiamarlo. Lui capisce subito chi sono e si mostra affabile e divertente. Rimaniamo al telefono per un'ora. Per una settimana non gli rispondo, ma alla fine cedo e accetto di vederlo. Dal caffè al pranzo e dal pranzo alla cena e dalla cena al letto. In 2 settimane diventiamo amanti, divertiti e appassionati. Il momento dello scavalco rispetto alla rettitudine coniugale può avvenire in varie maniere. Quando avviene, non se ne faccia la signora una colpa, vuol dire che già era nell'aria, sarebbe comunque avvenuto. Certo è che avvenga in alta quota, con un pilota d'aereo che è, diciamo, il numero uno, sin dai tempi dei romanzi stucchevoli di Liala, il prototipo di seduzione maschile, vuol dire che era ben pronta, ben preparata. Si suol dire alle mie contrade, la pera era matura e comunque sarebbe caduta dall'albero. E infatti caduta dall'albero. Ma non è stata una caduta fragorosa, è stata una caduta, mi sembra, piacevole. Insomma, lei è uscita da un ruolo e entrata in un altro. Appassionata, amante, con il problema di dover gestire, a questo punto, 2 uomini e li gestisce nella peggiore delle maniere. Io gli dico sin dal primo caffè che sono sposata. Lui dice di essere separato. Dopo 1 mese mi dice di essersi innamorato e inevitabilmente ci casco anche io con la testa e con il cuore. Mentre comincio a ragionare seriamente su che cosa fare con mio marito, comincio però anche a notare qualcosa che non mi convince. A volte non risponde alle mie chiamate e mi richiama dopo, a volte non risponde proprio. Sapendo che io nei weekend ero da mio marito, ci vedevamo sempre durante la settimana. Ma al primo fine settimana in cui io ero rimasta da sola a Milano, vedo che improvvisa una strana giustificazione per non vedermi per tutto il weekend. Un bel giorno, che non dimenticherò mai, mentre esco dal residence del mio amante, mi ritrovo mio marito lì, fermo, in piedi, ad aspettarmi davanti alla mia auto. Aveva capito tutto e mi aveva seguito. A quel punto non avevo ormai più niente da nascondere e apriamo ufficialmente la crisi. Chiamo il mio amante e gli dico che sono stata scoperta. Lui immediatamente si dice dispiaciuto, ma dalle sue parole si capisce che si sta ritirando. Mi chiede che cosa voglio fare. Io gli rispondo che dipende da quello che lui prova per me, al che comincia a parlare fumoso, palesemente imbarazzato. Insomma, alla fine della telefonata lo ammette. Ha anche un'altra storia parallela alla mia. Non è la ex moglie, ma un'altra amante, diciamo così. Mi cade il mondo addosso. Dov'è l'uomo innamoratissimo e appassionato che diceva «Non ho mai amato così una donna?» Non mi resta che liquidarlo dopo una solenne incazzatura e affrontare mio marito, da cui alla fine, dopo dubbi e dopo le inevitabili ferite, ho deciso di separarmi. Quello che mi ha fatto più male di questa storia che ho ormai digerito non è stato il suo rifiuto, ma il suo avermi mentito sistematicamente dall'inizio. Non capisco che esigenza avesse di farmi innamorare, se lui non aveva la minima intenzione di farlo o se non lo desiderava. Alla fine, io che tradisco mio marito, sono stata tradita dal mio amante, che è il massimo del paradosso, no? Essere traditi nel tradimento. Mi sembra una dinamica sempre più diffusa per quel che vedo. Direi quasi che con la crisi del matrimonio si sta verificando anche la crisi della figura degli amanti, almeno quelli di un tempo. C'è da rimpiangerli? Arianna. Perché ha sbagliato questa nostra amica? Ed è manuale la risposta. Perché si è compromessa 2 chance di avere un marito e di avere un amante per troppo amore. La sua è stata una scelta d'amore, una scelta di passione. Doveva essere una scelta più lucida, una scelta di piacere, una scelta di uscita dalla regola, o comunque sia doveva essere una scelta. Non è stata una scelta perché l'amore è folle. L'amore non fa ragionare, l'amore fa fare sempre le scelte sbagliate, se no non sarebbe amore. Mi domanda l'amica, trascurando il fatto che il marito ha fatto quello che doveva fare una persona che ci tiene alla moglie, si accorge la tradisce, non fa scenate, la coglie sul fatto, di modo che evita tutta una lunga trafila di avvocati, di agenti segreti, investigatori, dice ecco, t'ho beccato con il sorcio in bocca, cara, prendi la tua strada. Scelta lecita, giusta, poteva anche perdonarla, ma lei in quel momento era innamorata, quindi gli avrà detto no caro, lo amo, scusami, mi dispiace, l'amore fa impazzire, ho detto vabbè, tientelo se ti ami. Però l'amante allo stesso tempo, quando si accorge di non essere più amante, di essere subito in prima fila, quindi essere l'uomo della vita, si trova di fronte al problema e al dilemma di dover gestire una quasi moglie e rivela, non si sa se è vero, non si sa se è simulato, che ha un'altra donna. Quindi improvvisamente lei si trova nelle stesse condizioni del marito, tradita nel suo sogno d'amore e di fedeltà. E domanda come mai quest'uomo mi parlava d'amore, mi fingeva di essere innamorato, ha suscitato in me l'amore, quando potevo essere soltanto per lui un balocco dei sensi. E cara mia, perché un uomo che sa vivere sa che la donna innamorata rende molto di più dal punto di vista del piacere della donna che lo fa soltanto per diletto, per trastullo, che ti mortifica, che ti usa. Ha voluto innamorarti, che voleva al bene, la pera matura, la mela cotta. Perché? Perché in quelle polpe tenere si affonda meglio, è tutto molto più piacevole.